Capitolo 36. Mister Vincey tornò a casa dalla lettura del testamento con l'opinione considerevolmente mutata su molti argomenti. Era un uomo di larghe vedute, ma portato ad esprimersi in modo indiretto. Quando al mercato non era soddisfatto dei suoi nastri di seta, imprecava contro lo stagliere. Quando suo cognato Bulstrode lo aveva fatto irritare, faceva delle osservazioni taglienti sul metodismo. E adesso era evidente che considerava l'ignavia di Fred con improvvisa accresciuta severità, scagliando una cuffia ricamata fuori dalla sala per fumatori sul pavimento dell'ingresso. «Bene, signore», osservò quando quel giovane gentiluomo stava per andarsene a letto, «spero che ora ti sia decisa ad andare all'università il prossimo trimestre e superare l'esame. Io ho preso la mia decisione, perciò ti consiglio di non perdere tempo a prendere la tua». Fred non rispose nulla. Era troppo disperato. 24 ore prima aveva pensato che invece di aver bisogno di sapere cosa fare, a quest'ora avrebbe saputo che non aveva bisogno di fare niente, che sarebbe andato a caccia vestito di rosa, avrebbe avuto un cane da caccia di prim'ordine, avrebbe stanato la selvaggina su un bel cavallo e avrebbe goduto del rispetto generale per questo. Inoltre sarebbe subito stato in grado di pagare Mr. Garth e Mary non avrebbe più avuto alcuna ragione per non sposarlo. E tutto questo sarebbe dovuto arrivare senza studiare o senza altri sforzi, puramente grazie al favore della provvidenza, sotto forma del capriccio di un vecchio gentiluomo. Ma ora, dopo 24 ore, tutte quelle speranze ben fondate erano sconvolte. Era una vera disdetta che mentre soffriva per questa delusione fosse trattato come se fosse di peso da lui, ma se ne andò in silenzio e la madre perorò per lui. Non siate severo con quel povero ragazzo, Vincey. Si metterà a fare il bravo ancora, anche se quel vecchio cattivo lo ha ingannato. Sono sicura, come è vero che sono seduta qui. Fred diventerà un bravo ragazzo, altrimenti perché si sarebbe salvato sull'orlo della tomba? E io lo chiamo un furto. Promettergli la terra era come dargliela. E cosa significa promettere se farlo credere a tutti non è promettere? E avete visto che gli aveva lasciato proprio 10.000 sterline e poi gliele ha riportate via di nuovo. Portate via di nuovo, disse Mr. Vincey con stizza. Vi dico che il ragazzo è sfortunato, Lucy, e voi lo avete sempre viziato. Beh, Vincey è stato il mio primo figlio e voi siete stato tanto pieno di premure con lui. Quando è nato eravate così orgoglioso che più non si poteva, disse Mrs. Vincey, recuperando con facilità il suo sorriso gioioso. Chissà cosa diventeranno i neonati. Ho fatto davvero lo stupido, questo sì, disse il marito con maggiore mitezza, tuttavia. Ma chi ha dei figli più belli e migliori dei nostri? Fred è molto superiore ai figli degli altri, si sente quando parla che è stato in compagnia di universitari. E Rosamond? Dove c'è una ragazza come lei? Potrebbe stare accanto a qualsiasi signora del paese e farci solo una figura migliore. Capite? Mr. Lydgate ha frequentato le compagnie più signorili ed è stato ovunque, eppure si è innamorato di lei immediatamente. Avrei potuto anche desiderare che Rosamond non si fidanzasse. Avrebbe potuto, durante una visita, fare la conoscenza di un partito assai migliore. Voglio dire, a casa di Miss Willoughby, la sua compagna di scuola. In quella famiglia hanno parenti di rango elevato, come in quella di Lydgate. Diavoli, parenti, disse Mr. Vincey, ne ho abbastanza di loro. Non voglio un genero che non possiede altro che i suoi parenti per renderlo bene accetto. Mio caro, disse Mrs. Vincey, mi siete sembrato così contento. È vero, io non ero a casa, ma Rosamond mi ha detto che non avete trovato nulla da ridire sul fidanzamento e lei ha cominciato a comprare il miglior lino e la migliore batista per la sua biancheria. Non perché l'abbia voluto io, disse Mr. Vincey. Quest'anno avrò abbastanza da fare con un briccone ozioso di figlio senza dover pagare l'abito di nozze. I tempi sono durissimi, tutti vanno in rovina e non credo che Lydgate abbia un centesimo. Non darò il mio consenso al matrimonio, che aspettino come hanno fatto gli altri prima di loro. Rosamond la prenderà male, Vincey, e sapete che non avete mai avuto il cuore di contrariarla. Sì, che ce l'ho. Quanto prima il fidanzamento viene rotto, tanto meglio. Non credo che guadagnerà mai molto dal modo come va avanti. Si fa dei nemici e tutto quello che sento che fa. Ma goditi tutta la stima di Mr. Bulstrode, mio caro. Il matrimonio andrebbe a genio a lui, credo. A genio un corno, disse Mr. Vincey. Bulstrode non pagherà per il loro mantenimento. E se Lydgate pensa che io sia disposto a dargli dei soldi perché mettano su casa, si sbaglia. Questo è tutto. Io mi aspetto di dover rinunciare ai miei cavalli, provoco. È meglio che riferiate a Rosie quello che dico. Questa prassi non era infrequente per Mr. Vincey. Precipitarsi ad acconsentire con aria gioviale e in seguito, resosi conto di essere stato impulsivo, ricorrere ad altri per la sgradita ritrattazione. Tuttavia, Mrs. Vincey, che non si opponeva mai volentieri al marito, il mattino successivo non perse tempo a mettere al corrente Rosamond di quello che il padre aveva detto. Rosamond, intenta ad esaminare del lavoro di Mussolina, ascoltò in silenzio e alla fine girò il suo grazioso collo in un certo modo che solo una lunga esperienza poteva identificare con un'ostinazione assoluta. Cosa dici, cara? Chiese alla madre con affettuosa deferenza. Il babbo non intende dire nulla del genere, disse Rosamond perfettamente calma. Oh, ha sempre detto che voleva che sposassi l'uomo che amavo. E io voglio sposare Mr. Lydgate. Sono passate 7 settimane ormai da quando il babbo ha dato il suo consenso e io spero che avremo la casa di Mrs. Bretton. Beh, mia cara, lascerò a te il compito di trattare con tuo padre. Tu riesci sempre a trattare con tutti. Ma se mai andiamo a comprare del damasco, il posto giusto è da Sadler, molto meglio di Hopkin. La casa di Mrs. Bretton è molto grande, però. Sarei contentissima che avessi una casa del genere, ma ci vorranno un sacco di mobili, tappeti e tutto il resto, oltre all'argenteria, la cristalleria. Pensi che Mr. Lydgate se lo aspetti? Non immaginerete che lo chieda lui, mamma, è naturale che conosca bene i suoi affari. Ma può darsi che fosse a caccia di soldi, cara, e tutti noi pensavamo che avreste avuto un bell'ascito come Fred, e adesso tutto è così terribile. Non si prova piacere a pensare a niente con quel povero ragazzo così deluso. Questo non c'entra con il mio matrimonio, mamma. Fred deve smetterla di darsi all'ozio. Io vado di sopra a portare questo lavoro a Miss Morgan. Fa l'orlo a giorno molto bene. Mary Garth adesso potrebbe fare qualche lavoro per me, credo. I suoi lavori di cucito sono deliziosi. Sono la cosa più carina che conosco di Mary. Mi piacerebbe tanto avere le mie galle di batista con l'orlatura doppia e ci vuole un sacco di tempo. La fiducia di Mrs. Vincey che Rosamond fosse in grado di trattare il padre era ben fondata. A parte i suoi pranzi e le sue battute di caccia con i livrieri, Mr. Vincey, spavaldo com'era, poteva fare così poco a modo suo proprio, come se fosse stato un primo ministro. Era facile che la forza delle circostanze fosse troppa per lui, come lo è per la maggior parte degli uomini floridi, amanti del piacere. E la circostanza chiamata Rosamond era particolarmente forte a causa di quella mite insistenza che, come sappiamo, consente a una sostanza vivente bianca e soffice di aprirsi la strada contro una roccia che le si oppone. Il babbo non era una roccia, non aveva altra fermezza che quella di una serie di impulsi alterni, talvolta chiamati abitudine, e questo non l'aiutava certo ad assumere l'unica linea di condotta risoluta riguardo al fidanzamento della figlia, vale a dire informarsi in modo del tutto esauriente sulle condizioni economiche di Lydgate, dichiarsi impossibilitato a fornirgli del denaro e proibire similmente sia un matrimonio rapido sia un fidanzamento che doveva essere troppo lungo. La cosa sembra molto semplice e facile a dirsi, ma una decisione sgradevole presa nelle ore gelide del mattino aveva tante svantaggiose posizioni, come la prima gelata, e di rado persisteva sotto l'influsso calorifico del giorno. Il modo di esprimere un'opinione, indiretto ma violento, a cui era abituato Mr. Vincey, in questo caso aveva molte controindicazioni. Lydgate era un uomo orgoglioso e ovviamente era pericoloso fare delle allusioni a suo carico e buttargli il cappello sul pavimento, era fuori discussione. Mr. Vincey aveva un po' di soggezione di lui, era un po' lusingato che volesse sposare Rosamond e poco incline a sollevare una questione di soldi in cui la propria posizione non era vantaggiosa. Aveva anche un po' di paura di venire messo a mal partito in un dialogo con un uomo meglio istruito e di rango più elevato di lui e un po' di paura di fare ciò che alla figlia non sarebbe stato gradito. La parte che Mr. Vincey preferiva sostenere era quella dell'anfitrione generoso che nessuno critica. Durante la prima metà della giornata c'erano gli affari a impedire una qualsiasi comunicazione formale di una decisione sfavorevole. Durante la seconda c'erano la cena, il vino, il whist e la soddisfazione generale. E nel frattempo le ore lasciavano una ad una il loro piccolo deposito e gradualmente formavano la ragione definitiva per non agire, vale a dire che per agire era troppo tardi. L'innamorato accettato trascorreva la maggior parte delle serate all'Highgate e sotto gli occhi di Mr. Vincey continuava a ferire un corteggiamento del tutto indipendente da anticipi in denaro dai suoceri o dai probabili redditi di una professione. Il corteggiamento dei giovani, quell'ordito finissimo, persino i punti a cui aderisce, le cose da cui sono tesi i suoi sottili intrecci, sono a malapena percettibili. Fugaci contatti di polpastrelli, incontri di raggi da pupille azzurre scure, frasi non terminate, lievissimi scoloriamenti di guance e labbro, debolissimi fremiti. L'ordito stesso è fatto di spontanee credenze e indefinibili gioie, aneliti di una vita verso un'altra, visioni di completezza, fiducia vaga. E Lydgate si mise a tessere quell'ordito dal suo io interiore con stupefacente rapidità, a dispetto di un'esperienza ritenuta conclusa col dramma di Lore, anche a dispetto della medicina e della biologia. Perché si osserva che l'analisi di un muscolo macerato o di occhi presentati in un piatto come quelli di Santa Lucia e altri incidenti della ricerca scientifica sono meno incompatibili con l'amore poetico a paragone di una naturale stupidità o di una forte attrazione per la prosa più volgare. Quanto a Rosamond, era immersa nello stupore crescente di una ninfea nel suo momento di vita più pieno e anch'essa tesseva alacremente quell'ordito comune. Tutto ciò aveva luogo nell'angolo del salotto, dove si trovava il piano e, per quanto impalpabile, la luce ne faceva una sorta di arcobaleno visibile a molti osservatori, oltre a Mr. Fairbrother. La certezza che Miss Vincey e Mr. Lydgate fossero fidanzati divenne generale a Middlemarch, senza bisogno dell'annunzio ufficiale. La zia Bulstrode fu di nuovo scossa dall'ansia, ma questa volta si rivolse al fratello, andando di proposito al magazzino per evitare il brio di Mrs. Vincey. Le risposte di lui non furono soddisfacenti. Walter, non intendi dirmi che hai permesso che tutto questo andasse avanti senza informarti sulle prospettive economiche di Mr. Lydgate? Chiese Mrs. Bulstrode, spalancando gli occhi con aria di maggiore gravità alla volta del fratello, che al magazzino aveva un certo umore irritabile. Pensa a questa ragazza allevata nel lusso, in modo troppo mondano, mi duole dirlo. Cosa farà con un reddito modesto? Oh, diavolo, Harriet, cosa posso farci quando la gente viene in città senza che mi si consulti mai? Hai chiuso la tua casa a Lydgate? Bulstrode lo ha favorito più di chiunque altro. Io non mi sono mai profusi in elogi sul giovanotto. Dovresti andare a parlarne con tuo marito, non con me. Beh, veramente, Walter, come si può dar colpa a Mr. Bulstrode? Sono certa che il matrimonio non l'ha desiderato lui. Oh, se Bulstrode non gliel'avesse dato confidenza, non lo avrei mai invitato. Ma tu l'hai chiamato per curare Fred e sono certa che è stata una benedizione, disse Mrs. Bulstrode, perdendo il filo nelle complessità dell'argomento. Io di benedizioni non me ne intendo, disse Mr. Vincey con stizza. So che sono preoccupato più di quanto vorrei per la mia famiglia. Sono stato un buon fratello con te, Harriet, prima che sposassi Bulstrode, e devo dire che egli non mostra sempre verso la tua famiglia quello spirito d'amicizia che ci si sarebbe potuto aspettare da lui. Mr. Vincey aveva ben poco del gesuita, ma nessun gesuita esperto avrebbe potuto rovesciare i termini di un problema in modo più abile. Harriet dovette difendere il marito invece di biasimare il fratello, e la conversazione terminò a un punto lontano da dove era cominciata, con la discussione di un recente diverbio fra cognati a un'assemblea parrocchiale. Mrs. Bulstrode non riferì al marito le lamentele del fratello, ma a sera gli parlò di Lydgate e Rosamond. Egli però non condivideva il suo caloroso interessamento e parlò solo con aria rassegnata dei rischi che accompagnano gli inizi dell'attività medica e di quanto fosse auspicabile la prudenza. Sono certa che è nostro dovere pregare per quella ragazza scriteriata, allevata in quel modo, disse Mrs. Bulstrode, che desiderava risvegliare i sentimenti del marito. Certo, cara, disse Mr. Bulstrode in tono di assenso. Quelli che non sono di questo mondo possono far poco di più per frenare gli errori di chi è ostinatamente mondano. Questo è ciò che dobbiamo abituarci a riconoscere riguardo alla famiglia di vostro fratello. Potrebbe essere stato mio desiderio che Mr. Lydgate non avesse contratto una simile unione, ma i miei rapporti con lui sono limitati a quell'uso delle sue doti per i fini del Signore, come ci è insegnato dal governo divino in ogni ordinamento. Mrs. Bulstrode non aggiunse altro, attribuendo una certa insoddisfazione che provava alla propria mancanza di spiritualità. Credeva che il marito fosse uno di quegli uomini di cui si sarebbe dovuta scrivere la biografia dopo la morte. Quando Quanto a Lydgate, una volta accettato, era pronto ad accettare tutte le conseguenze che credeva di prevedere con perfetta chiarezza. Naturalmente si doveva sposare entro un anno, magari addirittura entro 6 mesi. Questo non era ciò che si era proposto, ma altri progetti non sarebbero stati intralciati, si sarebbero semplicemente adeguati un'altra volta. Il matrimonio, naturalmente, si doveva preparare nel modo consueto. Bisognava prendere una casa invece delle stanze che occupava abitualmente. E Lydgate, avendo sentito Rosamond parlare con ammirazione della casa della vecchia Mrs. Bretton, sita in Lowick Gate, se ne ricordò quando rimase vuota dopo la morte della vecchia signora e immediatamente entrò in trattative per prenderla. Questo lo fece con noncuranza, in modo molto simile a quando dava ordini al proprio sarto per ogni requisito di un vestito perfetto, senza la minima idea di essere uno spendaccione. Al contrario, avrebbe disprezzato qualsiasi ostentazione di spese. La sua professione lo aveva fatto familiarizzare con ogni grado di miseria e si preoccupava molto per coloro che conducevano una vita di stenti. Si sarebbe comportato perfettamente a un tavolo dove la salsa fosse stata servita in una sassiera priva di manico e non avrebbe ricordato nulla di un gran pranzo, tranne che c'era un uomo che parlava bene. Ma non gli era mai passato per la mente di dover vivere in un qualsiasi modo diverso da quello che avrebbe chiamato comune, con bicchieri verdi per i vini del Reno e un eccellente servizio di camerieri a tavola. Riscaldandosi alle teorie sociali francesi, non si era portato dietro alcun odore di bruciato. Possiamo occuparci anche di opinioni estremiste con impunità, quando i nostri mobili, i pranzi che offriamo e le preferenze per il blasone nel nostro caso ci legano in modo indissolubile con l'ordine costituito. E Lydgate non propendeva per le idee estremiste, non avrebbe gradito delle dottrine che predicavano di andare in giro a piedi scalzi, esigente com'era in fatto di stivali. Non era radicale in rapporto a niente tranne la riforma medica e il proseguimento della ricerca. Nel resto della vita pratica seguiva abitudini ereditarie, metà per quello orgoglio personale e quell'egoismo irriflessivo che ho già chiamato mediocrità, e metà per quell'ingenuità che dipendeva dall'attaccamento alle sue idee preferite. Qualsiasi controversia interiore dibattuta da Lydgate sulle conseguenze di questo fidanzamento, che lo aveva preso alla sprovvista, volgeva intorno alla scarsità di tempo, non di denaro. Certo, essere innamorato e atteso continuamente da una certa persona che si rivelava sempre più carina di quanto il ricordo gliela potesse presentare, in effetti era di disturbo all'uso diligente delle ore libere che sarebbero potute servire a qualche impacciato tedesco a compiere la grande e imminente scoperta. Questo era in realtà un motivo per non rimandare troppo a lungo il matrimonio, come fece capire a Mr. Fairbrother un giorno in cui il parroco venne nella sua stanza con alcuni prodotti dello stagno che voleva esaminare con un microscopio migliore del proprio e al trovare la tavolata di attrezzature di campioni di Lydgate in grande disordine, disse in tono sarcastico: «Eros è degenerato. Ha cominciato introducendo l'ordine e l'armonia e ora riporta il caos». «Sì, per certi aspetti», disse Lydgate sollevando la fronte e sorridendo mentre cominciava a predisporre il microscopio. «Ma dopo comincerà un ordine migliore». «Presto?» chiese il parroco. «Spero di sì, davvero. Questa situazione instabile fa perdere tempo e quando uno si occupa di scienza ogni momento è un'occasione buona. Sono sicuro che il matrimonio sia la cosa migliore per uno che vuole lavorare costantemente. Allora ha tutto in casa, non è importunato da fantasticherie personali, può avere la calma e la libertà». «Siete un tipo invidiabile», disse il parroco, «ad avere una simile prospettiva. Rosamond, la calma e la libertà tutto per voi. Ed io, eccomi qui, con nient'altro tranne la mia pipa e i miei organismi dello stagno. Ora, siete pronto?» Lydgate non accennò al parroco un altro motivo che aveva per abbreviare il periodo del corteggiamento. Lo irritava alquanto, anche col vino dell'amore nelle vene, essere obbligato a unirsi così spesso al gruppo familiare a casa dei Vinci ed entrare tanto nei pettegolezzi di Middlemarch, partecipare a pranzi protratti a lungo, al gioco del whist e frivolezze in generale. Doveva mostrare deferenza quando Mr. Vinci decideva delle questioni con energica ignoranza, soprattutto in merito a quei liquori che erano il miglior ricostituente interno che vi difende dagli effetti dell'aria malsana. La franchezza e la semplicità di Mrs. Vinci non erano neppure sfiorate dal sospetto della sottile offesa che lei poteva arrecare al gusto del futuro genero. E tutto sommato Lydgate dovette confessarsi che si stava abbassando un po' nel rapporto con la famiglia di Rosamond. ma anche quella creatura squisita soffriva allo stesso modo. Era perlomeno gradevole pensare che sposandola le poteva offrire un trapianto assai necessario. Cara, le disse una sera col tono più gentile, mentre le si sedeva accanto e la guardava attentamente in faccia. Ma devo prima dire che l'aveva trovata sola nel salotto, dove la grande finestra all'antica, ampia quasi quanto quel lato della stanza, era aperta agli aromi estivi del giardino sul retro della casa. Il padre e la madre erano andati a un ricevimento e gli altri erano tutti fuori con le farfalle. Cara, avete le palpebre arrossate? Davvero? Fece Rosamond. Chissà perché. Non era un tratto del suo carattere rivelare i suoi desideri o le sue lamentele. Uscivano con grazia solo se sollecitati. Come se potete nascondermelo, disse Lydgate posando dolcemente la propria mano sulle sue. Non vedo forse una gocciolina su un ciglio? Qualcosa vi tormenta e voi non me lo dite. Questo non è affettuoso. Perché dovrei dirvi ciò che non potete cambiare? Sono cose di ogni giorno. Forse ultimamente sono peggiorate un po'. Seccature familiari, non temete di parlare, le indovino. Il babbo ultimamente è più irritabile. Fred lo fa arrabbiare. Questa mattina c'è stata una nuova lite perché Fred minaccia di mandare a monte tutta la sua istruzione e di fare una cosa del tutto indegna di lui. E per di più. Rosamond esitò e sulle sue guance cominciò a diffondersi un lieve rossore. Lydgate non l'aveva mai vista agitata dal mattino del loro fidanzamento e non aveva mai provato una tale passione nei suoi confronti come in questo momento. Baciò dolcemente le labbra esitanti, come per incoraggiarle. Penso che il babbo non sia del tutto contento del nostro fidanzamento, continuò Rosamond quasi in un sussurro, e l'altra sera ha detto che certamente vi avrebbe parlato per dirvi che bisogna rinunciarvi. Voi volete rinunciare? Chiese Lydgate con pronta energia, quasi con rabbia. Io non rinuncio a niente che voglio fare, disse Rosamond, recuperando la propria calma al sentir toccare questo tasto. Dio vi benedica, disse Lydgate, baciandola di nuovo. Questa costanza di proposito nel momento giusto era adorabile. Egli proseguì. Adesso è troppo tardi perché vostro padre dica che il nostro fidanzamento deve essere troncato. Voi siete maggiorenne e io pretendo che siate mia. Se ve ne è fatto alcunché per rendervi infelice, questo è un motivo per affrettare il matrimonio.